Allora, siamo al telefono con Andrea Dei Balto. Intanto, ciao Andrea, come stai e come state voi Balto? Ciao, ciao Mauro, tutto bene? Ti ringrazio e noi stiamo molto bene. E allora, noi vi chiamiamo perché il 29 novembre 2024, quindi poco tempo fa, è uscito Notti Insonni per Cuori Incerti, che è il nuovo album dei Balto. E noi ci siamo visti a gennaio 2022 per l'uscita di Forse è giusto così. Cos'è successo nel frattempo alla band? Allora, sì, sono passati un paio di anni da quando ci siamo visti e noi in realtà già da quel gennaio avevamo iniziato a scrivere poi quelli che, i provini di quelli che poi sono dopo diventati le canzoni, no, di questo disco. E è successo che abbiamo praticamente riportato quello che ci stava accadendo nelle nostre vite, in ciascuna delle nostre vite, su tanti provini registrati col telefono, registrati un po' qua e là. E abbiamo deciso di fare quindi un secondo album. Ok, e il tema principale delle canzoni di quest'album è un po' la nostalgia. Come mai questo tema, diciamo, e come viene declinato all'interno delle 12 tracce dell'album? Sì, c'è molta nostalgia, c'è molto rimpianto, c'è molto ricordo, quindi c'è molta in realtà. C'è uno sguardo molto rivolto al passato, a dire il vero, in questo disco. Quello che oggi è un passato, che però mentre lo scrivevamo era il presente, quindi le canzoni sono abbastanza intime, personali, raccontano tanto della vita, poi soprattutto della mia, quella di Manolo, il chitarrista, che siamo, diciamo, i due che hanno curato più la parte di scrittura dei testi. C'è il tema dell'incertezza nel futuro, c'è il tema delle relazioni che in qualche modo anche quelle più che sembrano essere più forti, più lunghe, più durature, poi possono in qualche modo cambiare di forma, terminare o in qualche modo concludere, e quindi la consapevolezza delle cose che cambiano. C'è il tema della fragilità, quindi Ragazzo Fragile, ad esempio, uno dei singoli. Siamo in questo modo perché abbiamo necessità di dare un nome alle nostre incertezze, alle nostre insicurezze soprattutto, no? E dire ok, siamo quattro maschi bianchi fortunati, però diciamo che anche noi dobbiamo ammettere dobbiamo ammettere che possiamo stare male, dobbiamo prenderne atto e i momenti in cui poi tu sei da solo a casa nel letto e fai un po' mente locale su tutto quello che stai vivendo, sono quelli in cui le crepe diventano più grandi. E quindi l'accettazione della propria fragilità diventa poi un'arma di consapevolezza per provare a crescere. È molto interessante come tema la fragilità, perché sai, spesso nella scena musicale odierna, quella più ascoltata dai giovanissimi, diciamo, si parla di io sono figo, io sono forte, e invece saper mettere in parole anche la fragilità credo sia anche importante e un grande dono, direi, da parte vostra. Ti ringrazio, sì, è stato un passo importante perché poi stavamo vivendo un pochino tutti quanti le stesse sensazioni di chi sta arrivando vicino ai 30 anni, di chi si sente il peso delle aspettative, di certe scelte un pochino imposte anche dall'ambiente esterno, dalla società. E quindi sto disco è servito in qualche modo a noi in primis per fermarci un attimo e ammettere prima di tutto quelle che possono essere le proprie debolezze, i punti su cui lavorare, no? Per il proprio percorso di crescita personale, fondamentalmente. E invece musicalmente, rispetto al primo album, c'è stato qualche cambiamento? Avete avuto, non so, un approccio diverso? Avete sperimentato qualcosa? O più o meno siete rimasti sulla stessa lunghezza d'onda? Ma in realtà abbiamo cambiato ritornando un po' alla nostra origine, diciamo alla fonte di tutto, alla sala prove fondamentalmente. Quindi abbiamo fatto molte più ore di sala prove insieme per ripartire proprio dai provini chitarra e voce, dai provini piano e voce, e poi in una fase successiva, diciamo, abbiamo portato le canzoni sul computer e ci abbiamo lavorato dalle nostre camere, dalle nostre stanze, come sempre. Però l'approccio è stato un pochino diverso appunto rispetto a Forse è giusto così, dove siamo partiti molto più diretti già con Logic, tastieramidi e quant'altro. Quindi sì, siamo tornati un pochino più alle chitarre elettriche nella sala prove, insomma. Eccoci, sala prove, però poi l'album l'avete registrato a Genova invece. Come mai siete andati così lontano, visto che voi siete romagnoli, emiliano-romagnoli al limite? E come mai la scelta di registrare a Genova? Beh, ovviamente per complicarci la vita, prima di tutto. Però perché, diciamo, questo disco è nato dalla collaborazione con Rashid Bouchabra, Pioggia Rossa Dischi e Ex Otago, e abbiamo lavorato molto insieme alle preproduzioni, ci siamo fatti un sacco di gite insieme per lavorare appunto ai provini, e a un certo punto, quando era ora di concretizzare il disco, ci siamo guardati noi cinque, eravamo, mi ricordo, in una piazzetta di Genova tra i vicoli la notte, e ci siamo detti ok, lo registriamo qua, lo registriamo noi cinque, Rashid è il produttore, ok, facciamolo. Genova, Rimini sono lontanissime, ognuno di noi ha le proprie vite lavorative, extra musica, diciamo abbastanza standard dal lunedì al venerdì, e quindi questo disco è stato registrato nei weekend allungati, nelle feste e nelle ferie. Ad oggi siamo contenti di quello che è successo, anche se devo dire è stata dura. Immagino. E, avete dei concerti in programma per promuovere il disco? C'è qualche tour, visto che già si comincia a parlare di festival estivi, di grandi... Voi avete qualcosa in programma o stiamo ancora aspettando novità? Allora, abbiamo fatto la festa, diciamo, di release party per l'uscita del disco, proprio il giorno 29 novembre, al Messicano Indipendente, che è una realtà, uno spazio culturale nella provincia di Rimini. E ora so che stiamo scrivendo un po' di date per gennaio e febbraio, non le ho ancora sotto mano, però inizieremo sicuramente già da inizio gennaio a suonare un pochino. Perfetto, allora noi terremo d'occhio i vari social dei Balto per vedere se passerete anche da Bologna, quindi lo scopriremo. Sicuramente sì, Bologna. Fantastico. Allora Andrea, io ti ringrazio molto per la disponibilità. Ricordiamo Notti Insonni per Cuori Incerti, il nuovo album dei Balto uscito a novembre 2024. Ti chiedo se per salutarci vuoi scegliere un brano da questo disco da far ascoltare a chi ci ascolta da casa. Va benissimo, grazie mille a voi. Scelgo Cinema e vi mando un saluto e un abbraccio da parte di tutti i Balto. Grazie mille, saluta tutti i Balto. Grazie mille Andrea. Ciao, grazie a te.